Europa 24. Seconda giornata fiorentina organizzata dalla Commissione Europea in occasione della Giornata Europea delle Lingue, che vi ricordo sono ben 24 e mi riferisco solo a quelle ufficiali nell'Unione Europea, 28 Stati. Oggi i protagonisti sono gli insegnanti e le nuove metodologie di insegnamento. L'Europa ha lanciato una politica linguistica comune fin dal 92 e poi con la dichiarazione di Barcellona del 2002 ha chiesto ai governi di inserire seconde e terze lingue nel corso di studio fin dalle elementari. Adesso la parola d'ordine europea è il cosiddetto CLIL, un acronimo che possiamo tradurre come insegnamento di materie diverse, storia e scienze si prestano particolarmente, in una lingua straniera. In Spagna è stata avviata la sperimentazione dalle elementari, in Italia da 2 anni si è invece partiti dalle quinte dei licei linguistici. Insomma, siamo in ritardo e ci dobbiamo ancora attrezzare. Allora sentiamo Luisanna Paggiaro dell'EN di Pisa. Cioè negli altri stati dell'Unione Europea espressioni di CLIL, forme di CLIL sono molto diffuse in tutti i paesi. Naturalmente il principio che è alla base è che lavorare sulla lingua straniera attraverso i contenuti ha degli aspetti e cognitivi e linguistici molto forti. Per cui lo studente è più motivato, è una specie di sfida quella che si pone. Inoltre la metodologia CLIL pone lo studente in attività di problem solving porterà ad una valutazione di lingua e contenuto. Facciamo un esempio. Certamente, la storia è insegnata in una lingua straniera, sarà al 99% l'inglese e comunque il valore aggiunto è che effettivamente si lavora meglio sui contenuti perché la lingua è lingua della disciplina, quindi c'è un linguaggio specifico, è lingua della comunicazione perché viene attuata nel gruppo classe ed è lingua della metacognizione perché si lavora secondo certe procedure, quindi molto in lavoro a coppia, lavora a gruppi secondo determinati obiettivi. Quanti insegnanti CLIL abbiamo in Italia? Mi pare che le cifre date parlano di 15.000, un fabbisogno fra virgolette di 15.000 insegnanti. Che ci vorrebbero? Che ci vorrebbero. E quanti ce ne certo. sono? Ce ne sono, nella scuola ce ne sono, non è che l'insegnante non ci sia, l'insegnante di materia, il problema è che non si coprirà, cioè forse i licei dovranno attivare altre forme di CLIL. Qualche volta ci sarà l'insegnante e il docente preparato con formazione e certificazione linguistica, altre volte ci potrebbero essere un team di insegnanti che organizzano un percorso CLIL insieme. Le scuole si possono mettere in rete e attuare quindi dei percorsi condivisibili ed è anche questo che la circolare applicativa uscita il 25 luglio suggerisce, perché la circolare si rende conto che c'è una urgenza di formazione e quindi bisogna trovare forme e modi corretti, però anche abbastanza veloci. Come si diventa insegnante CLIL? Attualmente il Ministero ha scelto di formare gli insegnanti in servizio e in prospettiva ci saranno le università, per esempio alcune università hanno già messo dei master CLIL, che per la formazione CLIL, e quindi avremo dei nuovi docenti che usciranno con una laurea più abilitazione che fa un percorso CLIL, insomma. E ora torniamo a Bruxelles per parlare di banche e di come Europa e Stati Uniti non stiano trovando regole comuni in materia appunto fiscale. Sentiamo Maria Luisa Pezzali. Europa e Stati Uniti sono continenti a due velocità anche in campo bancario. Ecco perché la controversia su swap e derivati preoccupa l'industria del credito. Se non si troverà al più presto l'accordo su regole condivise, l'utilizzo di questi strumenti diventerà problematico e i costi aumenteranno sia per le banche che per i clienti. E quando i clienti sono realtà globali, le regole condivise sono indispensabili. Robert Preister, vice amministratore delegato della Federazione delle Banche Europee, chiede di inserire le norme su swaps e derivati nel Trattato di Libero Scambio Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti, ora sotto negoziato. Includere lì la questione, dice Preister, significa creare un canale di discussione nelle sedi legislative. Potrebbe aiutare ad allineare le posizioni e creare le convergenze necessarie per superare tutti i problemi che stiamo affrontando ora, evitando di discutere le regole dopo che sono state fissate. Questa è la strada più difficile per arrivare ad una comprensione e interpretazione condivisa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per oggi. Europa 24 torna lunedì, mentre vi segnalo che l'Euroreportage di questa settimana, in onda come sempre domattina, sarà dedicato al day after del referendum scozzese. Chissà che non siano proprio gli indipendentisti, quelli di Edimburgo e Glasgow, a chiedere a Londra più Europa. Un saluto da Gigi Donelli. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.